nuovo millennio tirano l'abitudine, la tua libidine foggia nell'attitudine atroce, monda l'immondizia che sevizia la purezza di un bimbo sovvertendo la giustizia. La tua condizione mi suscita solo rabbia, zero tolleranza, rogo la tua razza, nemmeno la penora riesce a placarmi. Accetta la mia accetta solo per suicidarti, concepito come un lebbroso per Caligola, incognita funesta per Dio e Pitagora. Forse tu hai un'innata maledizione, quella di abusare di un dono dell'amore. Prendi difese come eccesso d'affetto, colpisci e abusi su un piccolo e nulletto. Ti meriti solo l'estrema condanna che non colma l'abuso di una vita prima franca. Non so perché certa gente ancora vive sindrome assassina attraverso queste rime. Cerco di placare questa mia malattia volta a distruggere la pedopazia. Non so perché certa gente ancora vive sindrome assassina attraverso queste rime. Cerco di placare questa mia malattia volta a distruggere la pedopazia. Quante menti malate ne ho fatto una razzia, tra schizofrenici e maniaci mastico pazzia. Ma non mangio ogni pazzia, questa è pedofilia. No no no, non è la mia, per te c'ho l'artiglieria pesante, proiettili all'uranio impoverito, non fatti d'acciaio ma di parole maledico. Te quelli che come te segnano il destino di un piccolo bambino, sei solo un assassino, un bastardo. Se crocerai il mio sguardo rassegnati, io mordo. Sono un caso clinico, mascella con un morbo. Ti azzanno e non ti lascio, peggio del dottor Lecter. E sottofondo stile Manson tra le note di Helter Skelter. Compirò un massacro, violenza e stile macro, quella santa inquisizione in nome del sacro. Però sono io e tu sarai il mio sfogo, sarò il tuo inquisitore e ti metterò sul rogo. Non so perché certa gente ancora vive sindrome assassina attraverso queste rime. Cerco di placare questa mia malattia volta a distruggere la pedopazia. Non so perché certa gente ancora vive sindrome assassina attraverso queste rime. Cerco di placare questa mia malattia volta a distruggere la pedopazia. Tu sei rispettato molto meno del mio cesso, se mani il crimine di moda è il tuo gesto. Meglio se in sta terra non fossi mai nato, odiato da tutti, peggio di un carcerato. Ma quale prigione in mezzo agli uomini d'onore? Tu meriti di peggio, lunga vita con dolore. Il resto dei tuoi giorni imprigionato sulla gogna, che uno stormo di avvoltoi ti mangino carogna. Bestia che persevera ogni nefandezza, bastardo bugiardo quando porgi una carezza su un'anima pura che ti sorride ignara. Pedofilo rogna, ti sigillo in una bara. Tu lo chiami affetto pretendendone il diritto, ma il termine giusto è solo uno delitto. E sono io che ti ammazzo con i nervi che mi sboccano. È inutile, sei morto, i bambini non si toccano. Joseph Ratzinger was at the middle of this for most of the years that Cremin was enforced. He created the successor to Cremin, and now he's the Pope. This all says that the policy and the systematic approach has not changed.